Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Sono le 8, 18 minuti e 14 secondi, è venerdì 25 settembre, questa è la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Oggi avremo ospite il leader della Lega, Matteo Salvini, poi sarà con noi la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, per fare un punto sulle questioni Covid, che come vedete stanno tornando, le abbiamo un po' lasciate da parte con le elezioni e il referendum, invece il tema sta tornando e sta tornando forte. Però questo è come sempre il momento della nostra chiacchierata quotidiana con Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Io vorrei partire oggi con te dal Cardinal Becciu, che si è dimesso. Si racconta di denaro andato alla COP del fratello, scandali che siamo abituati a vedere più da questa parte del Tevere e che arrivano anche dall'altra parte. L'uomo che gestiva la sezione affari generali della segreteria di Stato, che cos'è, una sorta di banca riservata del Papa, e soldi utilizzati per se stesso, eh? Sì, io ho l'impressione che, a differenza di altri cardinali del passato, penso a Versinkus, Giovanni Angelo Becciu da Sassari sia più un pasticcione che un grande tramatore. Però mi colpisce appunto il fatto che era stato già rimosso dalla segreteria di Stato, nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Mi pare, hai capito, un cardinale nominato sì, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. E si scopre, un'inchiesta dell'Espresso lo ha annunciato, che i soldi dell'elemosina dell'opera di San Pietro e quelli della CEI sono stati dirottati su fondi speculativi verso le cooperative dei suoi fratelli, una, quella che tu ricordavi in particolare, che è la Spes di Ozieri, un paese in Sardegna che si occupa di migranti. Adesso io sono garantista, figurati se mi metto a dare la croce, e scusami il gioco di parole, addosso al cardinale Becciu. Però lì, siccome, come tu hai detto prima, non è la prima volta, anche il precedente Papa Ratzinger si è dovuto dimettere, ha accettato di andarsene in ritiro prima perché era diventato un pozzo di veleni San Pietro. Qui, piuttosto che nominare un cardinale e metterlo a capo di quella montagna di denari, in questo caso se ne sono accorti perché per un palazzo di Londra hanno perso 200 milioni, sì, e la cosa ha svegliato la loro attenzione. Però sarebbe, cioè anche il Papa stesso in una situazione di emergenza dovrebbe una volta alla settimana dire: fatemi vedere un po' quali sono le grandi questioni e dare un'occhiata, se no lì la tentazione di usare metodi tradizionali, per esempio, sì, come accade da noi, come accade nello Stato italiano, beh, se un ministro del tesoro fa affari con una cooperativa di suo fratello, la cosa di per sé, anche se guadagnano 200 milioni invece di perderli, è una cosa che non si fa, ecco. La Chiesa deve adeguarsi, entrare nella modernità anche per la gestione dei soldi. E poi sta male, diciamo la verità, sta male vedere la Chiesa comunque, ripeto, anche avesse guadagnato con l'acquisto di quel palazzo di Londra, che allora sembrava un grande affare, ma poi ce ne sono infinite nei giornali oggi, chi si appassiona di queste cose ne può leggere a dismisura. Anche se avessero guadagnato, vedere uomini cardinali, uomini che devono eleggere il prossimo Papa, impegnati nel impegnati in questo esercizio, non lo so, la Chiesa dovrebbe pensarne un'altra, perché sì, tanti discorsi, i poveri, i migranti, e poi i soldi finivano alla cooperativa Spes di Ozieri, sì, per, che si occupa dei migranti, sono a separare famoso, i soldi. Paolo, o nel famoso, te lo ricordi che ne parlammo, nel famoso fondo Centurion del finanziere Enrico Grasso, che li ha usati tra l'altro per diventare socio di Lapo e il Cane in Italia Independent e per finanziare il film su Elton John, un'icona del mondo omosessuale, che no, è una cosa che ha incuriosito un po' tutti, no? Quello, il film su Elton John, io glielo perdono alla Chiesa, perché finanziare con i soldi dei poveri un bel film su Elton John, sto scherzando ovviamente, e queste cose vanno prese anche con ironia, però insomma tenere una muraglia fra chi si occupa di queste questioni, non perché il denaro sia sterco del diavolo, ma perché è brutto confondere le invocazioni a far venire i migranti e poi vedere che i soldi dei poveretti che li lasciano in eredità o li donano alla Chiesa finiscano nella cooperativa del fratello del cardinale Becciu. Sento che stai parlando molto di migranti, secondo me hai in mente qualcosa, forse le parole della ministra Lamorgese. Le parole della ministra Lamorgese, sento che tu hai il gatto in bocca, perché ti ha dato una grande soddisfazione, perché ha detto che queste proposte della von der Leyen sulla revisione del caso di Dublino, la cosa su cui tu primo in Italia, forse anche in Europa, nel mondo, nell'universo, perché no? Tu hai detto, a me sembrano fesserie, adesso io sunteggio con un linguaggio meno forbito di quello che usi tu. In fondo Lamorgese, oggi il ministro Lamorgese, si è dovuta piegare a Simone Spezia, ha detto anche lei ha dubbi su queste proposte, e quindi potresti fare, io ieri ti ho mandato al Parlamento Europeo, oggi no, al ministro dell'Interno, non dico a prendere il posto con Lamorgese, no, del resto la vostra intesa è perfetta, avete dubbi sulle proposte della von der Leyen sulla redistribuzione dei migranti, ma poi non ne parlo solo per questo, sento appunto che ancora ridi di soddisfazione, ma anche perché lì stanno arrivando i processi a Salvini per la gestione dei migranti, il giudice che si occupa di Salvini è molto divertente, la storia, perché non fa che fare interviste, ce n'è anche oggi, ieri c'era su Repubblica per dire guardate io non sono come Palamara, il giudice si chiama Nurzio Sarpietro e dice io non sono come Palamara, giudicherò in tutta onestà, ma nel frattempo i processi a Salvini si moltiplicano e insomma lo vedo in grande difficoltà, lui ovviamente come tutti i processati dice no, saprò difendermi, però io continuo, anche oggi c'è un'intervista a Giorgetti su Repubblica che è più tranquilla, loda Prodi, dice fa bene Prodi a dire che ci vuole un sistema maggioritario, Letta d'altra parte, Enrico Letta, sì, Giorgetti e Letta vanno di intesa, Letta dice ma perché non ci recuperiamo il Mattarellum come sistema di voto, ed essendo Presidente della Repubblica Mattarella questa cosa va anche a lode dello stesso Presidente, lo stesso Giorgetti non lo esclude in questa intervista che tu citavi, quindi forse qualche segnale c'è. Comunque, se lo dicono Giorgetti e Letta vuol dire che non si farà. Ricordatelo questo, ma quelli marciano per fare un sistema proporzionale, non capisco da dove gli venga questo impulso, forse per dare un po' di respiro ai 5 Stelle che sono in un caos terribile, loro vanno sempre male, l'abbiamo già detto alle elezioni regionali, però la Repubblica oggi calcola che avevano 20 consiglieri in tutta Italia, oggi ne hanno 3. E quindi la cosa sta prendendo dimensioni, adesso che si vedono meglio i risultati delle elezioni di domenica e lunedì scorso, prendendo dimensioni più consistenti. Il giornale, come tu hai già raccontato, sono 2 o 3 giorni che fa dei titoli centrodestra svegliati, qui stiamo messi male, dati una regolata, non basta. dire le cose che si sono dette fino ad adesso. Qua gli ascoltatori dicono che non devi nominare Prodi perché è concorrente al Quirinale e quindi non va nominato, cioè l'hai nominato prima, non dovresti farlo. Ma io apposta lo nomino, poi per bruciarlo. Per bruciarlo, poi Prodi anche lui dice che non concorre al Quirinale, che da solo... consigli da vecchio saggio, seguirò anch'io questa indicazione, però dirò anch'io che i miei sono solo consigli da vecchio saggio, ma non credetemi, è il Quirinale la meta. A chiudere, Paolo, c'è qualcos'altro che mi vuoi segnalare che hai visto? Io ti voglio segnalare due cose. Uno, che Navalny forse tornerà in Russia, i russi già si leccano i baffi, ma lui vuole continuare, non vuole essere un esule, continuare l'attività di oppositore di Putin, e chi si avvicina a Putin muore, perché oggi Ornella Muti è stata condannata perché lei, per partecipare a una cena con Putin, diede buca, scusate il linguaggio un po' prosaico, al teatro di Pordenone, dove quella sera stessa doveva recitare in una pièce L'ebreo di Gianni Clementi, e quelli gli hanno fatto causa perché hanno visto delle foto che stava, lei si è data malata, delle foto sì, che stava brindando con Putin, il quale ha un'autentica passione per Ornella Muti, gli hanno fatto causa e l'ha persa. Quindi Navalny, attenzione, studi bene la vicenda di Ornella Muti, perché chi tocca Putin muore. Questa è Navalny lo e sa se bene, vuoi E se vuoi, scusami, invece, tornando al virus che ci accompagna per tutte le cose, sono d'accordo con tutti quelli che vogliono impedire il riempimento degli stadi, perché gli stadi stiano tranquilli con 1.000 spettatori, quelli che ne vogliono mettere 25.000 dicono che lo fanno per dare ristoro all'economia, ma vi ricordo che anche la Costa Smeralda fu riempita nello stesso modo e abbiamo passato un brutto quarto d'ora, e quindi gli stadi si diano una calmata, aspettiamo, giustamente il professor Massimo Galli dice aspettiamo 15-20 giorni, non muore nessuno, e sono invece in disaccordo su tutti quelli che il capo dello Stato ha risposto a Boris Johnson, che aveva detto che sì, l'Italia, che l'Inghilterra ha più virus perché sono più liberi. Dice no, noi siamo, il capo dello Stato, più liberi ma anche più seri. E oggi c'è un eccesso di intonazioni con varie tonalità sui giornali di gente che se la prende con l'Inghilterra e ricorda tutte le malefatte dell'Inghilterra, come l'hanno fatto per delle vignette sul canale in Francia o per delle copertine di giornali tedeschi. Io farei una moratoria, basta, il giornalista trombone che fa il patriota e si avvolge nella bandiera è una figura ridicola. Io non voglio unirmi a questo coro, tra l'altro assomiglia a quelli che nel celebre ventennio urlavano contro l'Inghilterra definendola perfida Albione, la definizione di Benito. Allora, Benito Mussolini. Allora Paolo, grazie, con questa chiusura chiudiamo la nostra settimana con questo tema dei giornalisti tromboni che resta là sospeso, e ci sentiamo lunedì mattina subito dopo il GR delle 8. Buona giornata Paolo Mieli, buon fine grazie settimana. Grazie a te. Noi ci risentiamo tra poco con, come vi dicevo, Matteo Salvini e poi la sottosegretaria Zampa, tra poco. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Buongiorno e bentornato a Matteo Salvini, leader della Lega. Salvini, eccoci qua. Cioè, buongiorno e buon viaggio. Buon viaggio a chi è in macchina, naturalmente, chi non è in macchina sta fermo e basta. Senta Salvini, iniziamo dalle spine giudiziarie e poi andiamo a quelle politiche. Ieri ha diffuso la sua memoria difensiva sul caso di nave Gregoretti, che tra il 27 e il 31 luglio del 2019 rimase senza la possibilità di sbarcare i migranti che aveva a bordo. Una memoria difensiva nella quale lei racconta che non non c'era emergenza sanitaria, che a bordo della nave c'erano due scafisti. Nel frattempo però potrebbe arrivare il processo anche sul blocco di Open Arms, che avvenne invece a metà dell'agosto del 2019. La linea che terrà come sarà? Più o meno la stessa? Difendere i confini, le leggi, le regole, la sicurezza e l'onore del mio paese non era un mio diritto ma un mio dovere, non da ministro ma da cittadino. Navi spagnole, navi francesi, navi tedesche che raccoglievano immigrati in acque libiche, che si trovavano in acque maltesi o in acque di altri paesi e volevano venire assolutamente esclusivamente in Italia senza che in Europa nessuno alzasse un dito, era una vergogna a cui ho posto fine con orgoglio. Quindi se questo mi costerà uno, due, tre processi, andrò in quelle aule di tribunale ribadendo che ho fatto semplicemente quello che non solo gli italiani ma anche il diritto interno ed esterno mi permetteva. È disposto ad accettare anche una condanna, Salvini? Ma figurati, io ho piena giustizia, piena fiducia nella magistratura, lascio giudicare a chi ci ascolta se quello che ho fatto da ministro sia stato mantenere una promessa fatta agli italiani con un accordo di governo, perché è chiaro ed evidente a chiunque stia ascoltando, come qualunque giudice, immagino che le politiche sull'immigrazione non sono attuate da un singolo ministro, ma sono condivise dall'intero governo. Quindi sono assolutamente tranquillo, l'unica cosa che mi dispiace è che devo perdere e far perdere tempo che utilizzerei altrimenti. Nel caso dell'Open Arms, in realtà i magistrati hanno acquisito anche delle mail, delle lettere, adesso non so, delle comunicazioni che le sono arrivate da Conte, dal Presidente del Consiglio, che le dice di far sbarcare i minori che erano sulla Open Arms. Infatti i minori sbarcarono, ma dei maggiorenni il Presidente del Consiglio non scrisse assolutamente nulla. E quindi lascio giudicare chi ci ascolta di chi eventualmente era la responsabilità di quello che è stato fatto. Però, ripeto, non mi risulta che ci siano ministri spagnoli, ministri maltesi, ministri francesi o tedeschi indagati perché difendono i confini e le leggi del loro paese. È un paese strano l'Italia, dove un ministro che si occupa di sicurezza, che ha nel programma di governo del suo partito il blocco degli sbarchi e una volta eletto mantiene stranamente quello che aveva promesso agli elettori che l'hanno votato, vada a processo. Cioè, ripeto, l'unica cosa che mi spiace è che la giustizia italiana ha tanti reati veri di cui occuparsi e stia perdendo ormai da mesi tempo e anche denaro pubblico, perché non so quanto costino processi come questi che coinvolgono centinaia di persone per sequestro di persona. Io rischio 15 anni di carcere, rischio più di uno spacciatore. Ecco, se uno spacciatore in stazione Termini a Roma venne beccato con mezzo chilo di cocaina, rischia di meno, per darvi un'idea. Detto questo, sono assolutamente tranquillo e sereno. Salvini, tra le promesse elettorali, lo ricordiamo, visto che è il tema che stiamo affrontando, c'era anche quello di occuparsi degli irregolari che si trovano sul nostro territorio, che sono stimati intorno ai 600.000, e là oggettivamente non si è riuscito a far molto. Dimezzati. Sono 300.000 adesso, gli irregolari sono 300.000 adesso? Secondo le stime anche di meno. Essendo irregolari è difficile stimarli evidentemente, però diciamo che una politica seria e rigorosa... Cioè, avete dimezzato gli irregolari in quell'anno, dice lei? Diciamo che molti si sono allontanati spontaneamente dall'Italia, mettiamola così. In che modo? Camminando, prendendo treni, prendendo autobus, prendendo macchine, come erano entrati irregolarmente. Diciamo che se un paese la smette di regalarti 35 euro al giorno, piazzandoti in albergo in Valtellina per anni senza controllare chi sei e che cosa fai, riduce questo stanziamento e introduce regole più serie a livello europeo, è meno facile stare a bivaccare per anni in Italia a spese degli italiani. E questa, come sappiamo, appunto, è la posizione che lei ha sempre espresso. Senta, Salvini, mi faccia venire alle spine politiche. Qua dicono che lei le elezioni, non dico che le ha perse, perché nessuno dice che le abbiate perse, però che sia stata una sua sconfitta, per esempio la scelta di Susanna Ceccardi, che il Veneto sia stata una vittoria di Zaia e non una vittoria della Lega, che lei esca fortemente indebolito anche all'interno del partito da questo voto. Ma questo è il desiderio di qualche giornalista che che sosterrebbe che oggi non è venerdì, se lo afferma Salvini, ma è martedì, mentre io con tutti i limiti del mondo ritengo che oggi sia venerdì e nessuno mi farà mai cambiare idea. Ieri ero nelle Marche, a proposito di vittorie, dove dopo 50 anni ha vinto il centrodestra con la Lega primo partito. E con un candidato ai Fratelli d'Italia, però con un candidato ai Fratelli d'Italia. Sì, con la Lega primo partito. Ora, se lei vuole dire che ieri sera il Milan ha vinto 3-2, ma ha perso perché si aspettavano tutti che vincesse 8-0, è una sua opinione. Rimane agli atti il fatto che il Milan ieri sera ha vinto e ha passato il turno. Rimane agli atti delle elezioni regionali di domenica scorsa che democraticamente i cittadini hanno consegnato alla Lega, che aveva 46 consiglieri regionali, 74 consiglieri regionali. 46, 74, più 28. Poi abbiamo perso in Toscana, in Puglia e in Campania. Certo, Toscana col 43%, battaglia bellissima, straordinaria, terra stupenda, ovviamente da sempre orientata da una parte, Puglia e Campania dove si sarebbe potuto fare di più come squadra, questo sicuramente, e dagli errori si può semplicemente imparare e migliorare. Detto questo, governiamo ad oggi 14 regioni su 20, con la Lega primo partito in Italia. Senta, si può far meglio, però diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Molti l'accusano di aver creato un po' troppe aspettative, no? Con quella storia del 7-0, quella è stata un po' una scivolata, Salvini, che dice? Un errore? Ma scusi, se a lei chiedessero, lei vorrebbe essere la trasmissione radiofonica più ascoltata d'Italia? Lei risponderebbe sì, sì, sì, assolutamente. Immagino, certo, che la sua ambizione sia quella di avere Radio 24 come la prima radio italiana. Su quello non c'è il minimo dubbio. L'ambizione di tutti noi qua, di tutti non ho mai sentito nessuno che dice: no, guardi, io vorrei essere la sesta radio italiana. Uno parte per vincere, e poi in democrazia a volte vinci, a volte perdi. Però ripeto, gli italiani ci consegnano a stamattina 14, governo di 14 regioni su 20 in Veneto. Hanno consegnato il 76%, penso sia un record europeo, al governatore Luca Zaia, e la Lega in consiglio regionale, perché tutti gli eletti sia della lista Lega che della lista Zaia sono iscritti alla Lega, sono 33 su 49. Quindi certo, potevamo fare 49 su 49, ma sarebbe stato poco democratico. Senta Salvini, c'è un... con Zaia c'è uno scontro sotterraneo, tanto mi risponde di no, io lo so, io faccio questa domanda, ma lo so che mi risponde di no. Ma dovrebbe essere? Ma lavoriamo insieme da 20 anni, se cresce lui sono felice io ed è felice il popolo veneto e sono felici gli imprenditori. In Veneto è in corso la più grande opera pubblica cantierata in Italia, la Pedemontana, 2,5 miliardi di investimento pubblico e privato. La gente evidentemente sceglie non in base all'ideologia ma in base alla concretezza. Io sono solo contento se tre veneti su quattro ci danno fiducia. Passerà una gestione più collegiale del partito, Salvini? Ma io sono abituato a delegare, lo faremo sempre di più, perché quando sei primo partito in Italia, ripeto, governiamo il Veneto, però per la prima volta gli elettori ci hanno consegnato tre consiglieri regionali in Campania, dove non esistevamo, e quattro consiglieri regionali in Puglia, dove non esistevamo. Quindi è chiaro che quando la gente ti fa crescere, devi essere ancora più bravo e più presente. Lei li riaprirebbe gli stadi, Salvini? Gliel'avevo già chiesto l'altra volta, però sì. Come vede, ogni volta che ci sentiamo riscatta la polemica. Lei li riaprirebbe con il 25% di capienza? Sì, assolutamente sì. Scuole aperte e sicure, università, io riaprirei anche laddove ci siano i margini tutte le università, in termini di sicurezza ovviamente, però è pieno di studenti che stanno pagando la retta e stanno pagando l'affitto da fuori sede, avendo l'università chiusa e le aule chiuse. Gli stadi, mi sembra che le regioni abbiano chiesto una cosa ragionevole, il 25% della presenza, in uno stadio da 80.000 persone, se ne fai entrare scadenzate nel tempo 15-20.000, non vedo dove sia il problema, anche perché lo sport solo che l'ingresso lo devi far durare 6 ore, cioè ma io penso iniziare che la mattina 2 ore prima al Gran Premio di motociclismo di MotoGP a Misano sono entrate 10.000 persone e si sono godute lo spettacolo e tante persone hanno lavorato, perché il calcio non è solo Ibrahimovic. Il calcio sono tanti stipendi da 1000 euro al mese di uomini e donne che da mesi non stanno vedendo una lira. Grazie Matteo Salvini, leader della Lega, buona giornata. Buona giornata. Noi passiamo, restiamo un po' sugli stessi temi. Parliamo di Covid, dovremmo avere tra un attimo in linea la sottosegretaria della salute, Sandra Zampa, per trattare esattamente di questo. Ce l'abbiamo? Sandra Zampa, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci siamo, sottosegretaria di Stato alla salute, eccoci qua. Cos'è questa storia della riapertura degli stadi? Madonna mia. Che non dice? È una cosa che, come sa, è stata... abbia il via libera del Ministero della Salute. Voi siete contrari? Noi siamo contrari. Il Ministro ha ieri ribadito che prima ci sono le scuole, ci sono altre priorità e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Questo significa, tradotto in maniera argomentata, che prima occorre vedere quale sarà l'impatto della riapertura delle scuole, quindi quanto si alzerà eventualmente l'indice di riproduzione virale, e solo successivamente si potrà aprire una riflessione su aperture che comportano grandi assembramenti inevitabilmente, come invece sono gli stadi. Quindi io personalmente lo avevo già detto ai primi di settembre, quando mi è stato chiesto, questa era la mia opinione all'epoca, cioè stiamo a vedere, mia opinione non personale, qui gli orientamenti personali vanno messi da parte, però da parte di tutti, bisogna davvero avere l'umiltà di ascoltare quello che ci dicono gli studenti. E anche il comitato tecnico scientifico. Nel caso Zampa, le regioni o i comuni, le singole squadre decidano di procedere in questa direzione, voi potete agire, per così dire, d'imperio? Cioè c'è qualcosa che può fare il ministero, che può fare il governo per fermare la possibilità di riaprire gli stadi? In questo momento, come lei sa, le regioni possono decidere. Guardi, è lo stesso, identica situazione che si è venuta a creare con la riapertura delle discoteche. Le regioni possono decidere, poi ad un certo punto, però, di fronte al disastro che stava venendo avanti, il ministro ha fatto un'ordinanza che ha chiuso, imposto la chiusura di tutte le discoteche. E sareste disposti a farlo eventualmente? Questo non lo so, lo deciderà il ministro. Io ho visto nel ministro una valutazione molto, contraria, veramente contraria ad andare in questa direzione. D'altra parte, sinceramente, di fronte al fatto che comunque una lievissima ripresa dei contagi c'è, noi abbiamo riaperto ed eravamo a 200 casi al giorno. Lascio come dire, giudicare gli ascoltatori qual è il trend, visto che oggi siamo a 1.700, 1.800, 1.600, dipende da quanti tamponi vengono fatti, e che soprattutto siamo circondati da un vero disastro. Sì. Ci deve confortare il fatto che ieri le CDC ha dichiarato l'Italia come in questo momento a basso, modesto rischio, se non per il fatto che ha una popolazione molto anziana, e questo resta uno degli elementi di allarme eventualmente, però andarsi a cercare dei guai per non voler aspettare 15 giorni a fare una valutazione. In questo momento la ripresa dei contagi è dovuta evidentemente ancora all'effetto delle vacanze, quindi a contagi, a contatti che si sono prodotti molto di più, e d'altra parte stava nelle cose. Sì, e adesso dovremmo vedere, come diceva lei e come dice il governo, dovremmo vedere che cosa succede, l'impatto della riapertura delle scuole, che in realtà lo avremo tutto sommato tra un paio di settimane, perché molte scuole stanno riaprendo in questi giorni. Esattamente, perfetto. Vede i rischi di una recrudescenza, che ci si arrivi a trovare, non dico in una condizione francese, i francesi ieri hanno contato 16.000 contagi, ma in una condizione spagnola o britannica 10.000, 6.000 contagi, lo vede questo rischio? Questo rischio esiste sempre, visto che noi abbiamo un virus assolutamente attivo, esattamente come quando si è manifestato all'inizio. E lei consideri anche un altro elemento: noi in questo momento in Italia, anche per merito di questo bel clima, non stiamo già al chiuso, ma noi tra un po' cominceremo a chiuderci in casa, a chiuderci in ufficio, a chiuderci nei mezzi di trasporto perché magari non vai a piedi, perché piove o è brutto tempo. Chiudere significa aumentare enormemente la possibilità di contagio, di diffusione, perché in un ambiente chiuso, e quindi tra l'altro ne approfitto per ricordare che anche se arriverà un po' freddo, aprire frequentemente le finestre, aiuteggiare la casa, aiuterà. Questo in generale, a prescindere dal Covid, dare una rinfrescata alla casa fa sempre bene. Esatto, è anche l'idea a volte. Di certo io credo che noi dobbiamo tenere in considerazione che ci sarà una ripresa di raffreddori, che comunque la ripresa dell'influenza ci sarà, perché non è che tutti si vaccineranno o che nessuno si ammalerà, e noi sappiamo, guardi, le do semplicemente un dato, la ripresa, se si dovesse avere contemporaneamente, una persona dovesse ammalarsi contemporaneamente di influenza e poi anche di Covid, raddoppiano le previsioni di un esito infausto, per dire com'è. Quali sono i rischi? Cose che ci devono, non lo dico, io non penso che le persone vadano spaventate, io penso che le persone vadano guidate a capire però la dinamica. C'è una dinamica, c'è una sua, diciamo, ormai sappiamo come funziona il virus, e quindi dobbiamo fare in modo di rispettare tutte le regole. Sì. La principale delle quali è evitare gli assembramenti. Esiste o non esiste la possibilità che si facciano assembramenti riaprendo stadi? Secondo me c'è questa possibilità. Senta Zampa, c'è un problema. A proposito di influenza, ne ha parlato lei. È la carenza di anti-influenzali, che è stata denunciata più volte dalle farmacie. È chiaro, quest'anno l'approvvigionamento è stato più ampio e lo sappiamo perfettamente. I soggetti deboli, per così dire, quelli che devono riceverlo perché hanno delle malattie pregresse, perché sono anziani, perché sono bambini, eccetera, eccetera, presumibilmente li avranno. E però la carenza nelle farmacie c'è, e qua non riusciamo ad uscirne. Loro continuano a denunciarlo, continuano a chiedervelo a voi come governo, e mi pare che risposte non ne stiano arrivando. No, non è vero che non ne stanno arrivando. Risposte sono arrivate perché in sede di conferenza Stato-Regioni e il Ministero è riuscito a raggiungere con le regioni un accordo per cui una quota non irrilevante va alle farmacie. È meno dello scorso anno, ma è meno dello scorso anno perché le regioni se ne sono acquisite di più, e quindi ce ne saranno di più nelle ASL, ce ne sarà di più a disposizione del sistema pubblico sanitario. Sì. Naturalmente io personalmente ritengo che anche la farmacia sia un presidio importante. Il governo sta lavorando, al Ministero stiamo lavorando per cercare di capire come acquisire e dove, su quale mercato, perché qui noi abbiamo comprato tutto quello che era possibile comprare. Quindi l'obiettivo Zampa è questo, è se le trovate, però il problema è che non si riescono a reperire in questo momento queste quote? Non è proprio così, io so che c'è in questo momento una trattativa in corso, è una quota supplementare eventualmente per necessità che si dovesse in questo momento. Di che dimensione? Guardi, non lo so, quindi siccome non me lo ricordo preferisco non dare informazioni così a casaccio. E perciò, però c'è una trattativa in corso e io so che si sta lavorando per questo. Sono convinta che ce la faremo, insomma, a superare questo problema. Ma guardi, mi sta più a cuore dire alle persone andatevela a fare il vaccino, perché invece lei lo dà per scontato, ma a me non sembra che sia così chiaro le persone. Sì. Lei non ha idea di quante persone non fanno il vaccino, essendo anti-influenzale. Nelle cose. Sì, assolutamente. Credo a che questa dai sanitari, sì, credo che quest'anno medico. Credo che quest'anno, sottosegretario, la percentuale aumenterà. La devo salutare. Ci sentiamo una prossima volta, dobbiamo chiudere. Purtroppo grazie Sandra Zampa, sottosegretaria alla salute, per essere stata con noi, Le auguro buona giornata, buon lavoro. Ci sentiamo. Buon fine settimana a tutti, Ci risentiamo lunedì alle 6:30. Ciao. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.